In tour. Collezione telefonica. Fergal. Ciao Rosanna, eccoci qua, proprio il fischio, l'applauso del folle qua, perché avete appena aperto l'esibizione meravigliosa di Moby su Why Does My Heart Feel So Bad, quell'ultimo brano che ha fatto con Kellis, ma qua dal vivo a Dublino con sua backing singer che porta in giro con lui. Qua una serata freddissima ragazzi, proprio il tempo gelido, più neve che si vede da 10 anni a tutto, in tutta Irlanda, sono tutti sconvolti qua, eppure Moby ha detto sul palco, ma oh ragazzi, fa freddo qua, sì, ma questo è niente in confronto ai 6 metri in America che qui sono familiari io. Allora è già un palco da 35 minuti, al momento sta parlando, non so che sta dicendo perché sto parlando con voi, però sta suonando al Point Apple a Dublino. Il Point Apple è il posto dove gli U2 hanno fatto le sue prove per il film Rattle and Hum, ed allora è un luogo molto importante per fare i concerti qua a Dublino, pure Bob Dylan, pure tante persone, 8.000 persone qua stasera, è proprio un grande evento. Allora, io voglio che Moby adesso cante un brano che vi le faccio sentire un po' in onda, però sta reagendo con palco, magari se riesco a dirlo qualche cosa. Ragazzi, che posso dire? C'è proprio la neve fuori, una cosa magica qua a Dublino in Irlanda questa sera. Io magari non ho preso un po' di abbronzatura, però un po' di Guinness ho preso. Guinness è buono, Moby sta bene. Ragazzi, Rosanna, ci sei? Sì, ci sono. Ok, parliamo un po' finché Moby fa un canzone, perché speravo di farvi sentire un po' del concerto. Siccome al momento sta ancora non c'è problema, Fregal, possiamo ricollegarci fra una manciata di minuti ed eventualmente puoi farci ascoltare qualcosa in diretta di quello che sta accadendo del Point Depot di Dublino dal quale sei collegato, va bene? Ecco, senti un po' di musica. Ecco, spero che questo vi piace. Io vi lascio, do la linea alla radio a Napoli, a Radio Tour con Porcelain di Moby, però magari possiamo sentire un po' il concerto qua in diretta da Dublino, dal Point Depot. Ci sentiamo tra meno di mezz'ora. Questo era un assaggio di quello che sta accadendo all'interno del Point Depot di Dublino, dal quale abbiamo avuto in collegamento Fergal per ascoltare un po' dell'atmosfera del concerto di Moby. Ma Moby ce l'abbiamo anche qui e quindi l'ascoltiamo naturalmente su CD Porcelain. Radio Tour in Tour, in diretta dalla nostra Moving Station. Ah sì, eccoci qua, siamo a Dublino. Di solito quando mi annunciano dicono un angolo verde dell'Irlanda, però stasera proprio un angolo bianco. Comunque c'è la folla qua al Point Depot per vedere a Moby, e chissà perché ci colleghiamo sempre che finiscono proprio un brano e sentiamo solo l'applauso dell'audienza. Comunque ci stiamo a divertire proprio, questa è la penultima data del tour che Moby che ha portato a Moby anche in Italia, ha fatto un giorno a Milano e oppure una data a Roma e poi finirà a Capodanno ad Edimburgo, ma questo è la penultima giorno a Dublino al Point Depot. Che roba, ho incontrato un italiano qua che è così tanto fan di Moby che è venuto a posto da Milano per vederlo a Dublino. Il suo nome è Andrea. Allora Andrea, tu sei proprio un fan di Moby, sì? Sì, sì, Moby è grandioso, il concerto è una figata, è molto bello. E perché hai scelto di venire a Dublino per vedere questo concerto? Perché l'Irlanda è un bellissimo posto e sono veramente contento di essere qua. L'Irlanda è il posto migliore dove vederlo. Wow, ma proprio parole belle queste. Ma aspettavi questo tempo, questo neve, questo ghiaccio? No, no, in Irlanda veramente no, fa un freddo bestiale qua giù, veramente ghiacciato. Ragazzi, ecco, io spero, domani sono in viaggio, spero di non rientrare a Napoli a trovare lo stesso tempo, lo stesso clima. Io adesso, siccome stiamo sempre aspettando che Moby riprende a suonare, io vi do appuntamento il 31, cioè dopodomani, alle 14 di pomeriggio. Mi pare che non possiamo aspettare che Moby esce a fare il suo encore dopo un bellissimo concerto di un'ora e mezza finora. Io vi do appuntamento alla prossima. Auguri ragazzi di buon anno. Linea allo studio a Napoli, Radio Tour, la stazione di grandi eventi. Alla prossima! Radio Tour, the moving station.